Allora, una breve meditazione per chiudere, Nicoletta. Partiamo dall'allineamento del corpo, dalla consapevolezza del corpo che possiamo ricercare e promuovere in qualunque posizione ci troviamo ora. Se c'è possibile, chiudiamo gli occhi, altrimenti socchiudiamoli, rilassando le palpebre. Sentiamo il nostro corpo, i suoi confini, la sua densità, il suo calore. Diveniamo quindi consapevoli del respiro. Respiriamo sentendo il movimento a onda dell'area dell'ombelico e dello stomaco in abbinamento a ogni espirazione e a ogni inspirazione. Con ogni espirazione quest'area rientra un poco verso la colonna grazie a una gentile attivazione dei muscoli addominali e con ogni inspirazione la medesima area si espande delicatamente. Respiriamo così 5-10 volte in modo fluido, continuo, privo di pause o irregolarità. Quindi visualizziamo la linea del tempo, il momento passato, il momento presente, il momento futuro, come se camminassimo su questa linea temporale tracciata a terra. Decidiamo di fermarci. Fermiamoci all'istante presente. Inspiriamo questo istante, ora. Espiriamo questo istante, ora. Inspiriamo l'energia dell'istante presente adesso, espiriamo l'energia dell'istante presente adesso. Visualizziamo l'inspirazione e l'espirazione attraversare come un'onda luminosa la fronte rilassata ed espandere il potere dell'istante presente nel campo della mente. Corpo, respiro e mente uniti qui e ora. Qui e ora. E quando lo desideriamo, apriamo gli occhi e, mantenendo la fronte rilassata e il respiro consapevole, torniamo alle nostre occupazioni.